Avete un giallo nel cassetto? Sognate di diventare uno scrittore? Con Radio 24 e Gialli Mondadori c'è l'opportunità per voi. Fino al 31 luglio potrete inviare i vostri racconti in versione breve e lunga alla Mondadori. I migliori verranno letti in onda in un nuovo appuntamento di Radio 24 e pubblicati in un'antologia speciale dei Gialli Mondadori. Per informazioni scrivete a giallomondadori@mondadori.it o andate su radio24.it nella sezione Giallo 24.